in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani alla vigilia di questa riapertura. Avete forse sentito della conferenza stampa di ieri di Giuseppe Conte, la prima non più in remoto ma in un cortile di Palazzo Chigi con i giornalisti seduti e distanziati, e Giuseppe Conte che ha prima illustrato il nuovo decreto e poi ha anche dato spazio alle domande. In realtà c'è stato poi nella notte, quindi i dettagli potrebbero essere, insomma, verranno resi noti probabilmente nelle prossime ore, però nella notte queste ulteriori messe a punto insieme ai vari presidenti di regione. In ogni caso la notizia è questa, che da domani in effetti si riapre e ci sono molte regole. Alcune sono leggermente cambiate rispetto alle indiscrezioni dei giorni precedenti. Il Sole 24 Ore titola: l'Italia riapre, rischio calcolato, sono le parole che ha usato anche Conte, che poi ha anche detto: ora un piano sui fondi dell'Unione Europea. Quindi la fase 2, che se vogliamo è iniziata già lunedì scorso, entra nel vivo, perché da domani sono di fatto è aperto quasi tutto tranne le palestre, che potranno riaprire il 25 di maggio, e poi bisogna aspettare, come avete sentito anche nel GR, il 15 di giugno per il cinema. C'è un accenno nel sommario del titolo del Sole 24 Ore principale di prima pagina alla questione FCA o FCA, che sta per, lo sapete, Fiat Chrysler Automobiles. È il gruppo nato dalla fusione tra Fiat appunto Chrysler, che ha chiesto un prestito di 6,3 miliardi, o meglio ha chiesto le garanzie della SACE, che è una agenzia italiana, per un prestito da 6,3 miliardi. È stato chiesto, perché questo ha suscitato parecchie polemiche, sono stati chiesti chiarimenti a Conte, che ha risposto: servono semplificazioni per rendere più competitivo il diritto societario. Quindi, se volete, un modo per aggirare la questione. Perché parliamo di polemiche? Perché la sede legale di FCA, come del resto di tantissime aziende, non è in Italia, quindi non è allo Stato italiano che paga una serie di tributi che fanno capo alla capogruppo, ma in Olanda. La fotonotizia, diciamo la foto che richiama poi un'inchiesta di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, che trovate a pagina 12, è l'inchiesta su Durov, che viene definito la primula rossa di Telegram, inchiesta sul miliardario russo che vive a Dubai. Corriere della Sera: rischio calcolato, si riparte. Qui è proprio messo tra virgolette, perché sono le parole di Conte. E le foto di prima pagina sono due. La prima è stata scattata a Milano, dove hanno riaperto alcuni mercati rionali. Questa foto scattata in uno di questi mercati, quello di Viale Papignano, che è uno storico mercato del sabato, è molto, per chi non magari non frequenta Milano di sabato o non lo sa, è un mercato sia di generi di alimentari sia di tutto il resto, e in effetti sembra le persone che sono fotografate hanno tutte la mascherina, però sicuramente difficile in una situazione del genere mantenere esattamente le distanze. E la seconda foto è invece stata scattata in Germania, perché sapete che ha ripreso il campionato anche se senza spettatori e con il divieto dei giocatori di esultare o abbracciarsi dopo i gol, e quindi ci sono le foto di questi saluti e manifestazioni di gioia, però fatte con il gomito. Vi segnalo l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che del Corriere della Sera è stato direttore due volte, è stato anche direttore del Sole 24 Ore, si intitola La classe dirigente che serve. Vi leggo le prime righe, ma come sempre è tutto, come sempre secondo me, è tutto da leggere il ragionamento di Ferruccio De Bortoli, che continua poi a pagina 32. Vi leggo la prima parte: ci si salva tutti insieme. Giusto, lo diciamo soprattutto all'Europa, ma non abbastanza a noi stessi. L'intervento dello Stato e l'erogazione di sussidi sono necessari, ma non possono che avere una durata limitata. Si tornerà a crescere sostenendo il peso del debito pubblico solo se si rilanceranno investimenti, competenze, merito, ricerca, concorrenza. In sintesi, estrema, se si avrà cura del capitale umano. Credo che questo non venga mai ricordato abbastanza, cioè anche a chi, come in generale l'opposizione, chiede ancora più, più aiuti. Sono tutti aiuti in debito. Quindi dobbiamo tenere presente che appunto il denaro non cresce sulle piante, non si può stampare moneta per evitare situazioni estreme come quelle che si sono viste in casi di superinflazione come prima della Seconda Guerra Mondiale, ma anche prima della Prima Guerra Mondiale. Quindi dobbiamo sempre ricordarlo, è un concetto molto semplice, cioè ci stiamo indebitando per necessità, ma ci stiamo indebitando. E poi vi segnalo, a proposito di assurdità, cioè di assenza completa di capacità di applicare la logica e di ragionare, il Padiglione Italia di Aldo Grasso, non perché il padiglione sia privo di logica, anzi, ma perché è dedicato a Sara Cunial, ex esponente del Movimento 5 Stelle, poi espulsa dal Movimento 5 Stelle, che ha fatto un intervento in aula che potrei definire allucinante, ma vi leggo le poche righe di Aldo Grasso perché sono assai più efficaci di un unico aggettivo. Il titolo è «L'eguaglianza fanatica dei diseguali». Il complotto o il fanatismo del peggio. L'intervento alla Camera della deputata Sara Cunial durante le dichiarazioni di voto sul Covid è trasceso in insulti. La parlamentare, eletta col Movimento 5 Stelle, poi espulsa persino dai pentastellati, ha attaccato il Premier Conte in un'escalation di offese che vanno da Bill Gates al Presidente della Repubblica, definito lo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente, che è la vera epidemia culturale di questo paese. Segnalo che tra l'altro poi le hanno fatto notare come l'attacco al Presidente della Repubblica fosse esagerato, eufemismo naturalmente, le ha detto che era stata fraintesa, che si riferiva in realtà a Giorgio Napolitano. La Cunial è la personificazione farsesca del complottismo, una sorta di megalomania alla rovescia. Bill Gates è responsabile di una politica pro-vaccini che è riuscita a sterilizzare milioni di donne in Africa. Vittorio Colao, che ricorderete è il presidente della Task Force, detta la sua politica da generale del Bilderberg. I vaccini sono strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario. E così via. Non c'è teoria citata dalla Cunial che non sia già stata smontata, per questo dobbiamo considerare il suo intervento come l'inevitabile prezzo da pagare alla democrazia, se è vero, come diceva Aristotele, che la peggiore ingiustizia sta nel volere l'eguaglianza dei diseguali. La democrazia di massa nasce dal legno storto dell'umanità, citazione da Isaiah Berlin. È l'eclettismo dell'impegno e della distruzione, qui però con una fedeltà al ridicolo che sfiora la tragedia. Poi vi segnalo dal Corriere della Sera comunque le pagine 2 e 3, dove ci sono ben 4 fotografie del Premier Conte e una foto, vi dicevo, di quel cortile all'interno di Palazzo Chigi, dove si è svolta per la prima volta da tanto tempo la conferenza stampa. Si vedono i giornalisti distanziati e dall'altra parte Premier Conte su una piccola pedana e alla sua destra Rocco Casalino, che dava la parola, cosa che non succede credo in nessun altro paese. Sceglieva lui i giornalisti ai quali far fare le domande. La Repubblica, Italia, ripartenza con rischio. Qui la fotonotizia, come nel caso del Sole 24 Ore, fa riferimento a un'inchiesta, in questo caso è un'inchiesta a più mani sui segreti di Wuhan. Sapete che Wuhan non è solo la città dove c'è stato il primo focolaio di coronavirus, ma è anche la città dove ha sede il laboratorio molto controverso dove si effettuano ricerche biologiche. I 65 giorni che hanno cambiato il mondo. Con la Repubblica in edicola, come ogni domenica l'Espresso, questa settimana in copertina c'è la foto di una mano guantata che prende in mano una fragola, è la mano di un bracciante, così coltiviamo la schiavitù, il caporalato, le paghe da fame, il cottimo, un inferno per i migranti ma non solo, è uno Stato che rinuncia a garantire i loro diritti perché vede solo le braccia e non gli esseri umani. La Stampa, bar, negozi, musei, l'Italia riapre. Questo è il titolo principale. L'editoriale è del neo direttore da un paio di settimane, Massimo Giannini, della Stampa. La collera nel paese dei sussidi. Anche in questo caso però le foto fanno riferimento a un'inchiesta della Stampa, in questo caso è di Anna Zafesova, e si intitola "Sono quattro foto di Donald Trump, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro e Alexander Lukashenko", cioè rispettivamente i leader di Stati Uniti, Russia, Brasile e Bielorussia. E il tema qui è che tutti questi quattro personaggi, questi quattro capi di Stato, sono stati in modi diversi, hanno avuto in modi diversi un atteggiamento, di considerare la pandemia di coronavirus meno grave di quello che poi si è rivelata. Da Trump a Bolsonaro, autocrati sull'orlo di una crisi di nervi. Questo perché naturalmente le conseguenze poi di aver sottovalutato la pandemia si riflettono nei numeri, che specialmente in Russia, tra l'altro la Russia è molto critica verso la stampa occidentale che mette in dubbio i dati ufficiali. Bolsonaro ha appena licenziato il secondo ministro della salute, il primo l'aveva licenziato circa una settimana fa, ne avevamo parlato anche Effetto Mondo, lo ha licenziato per evidenti contrasti tra le opinioni appunto del presidente e dei ministri della salute. Il Messaggero, il rischio calcolato di Conte, la foto anche qui è quella scattata ieri durante la prima partita della ripresa della Bundesliga, l'equivalente della nostra Serie A. E qui vi segnalo l'editoriale di Romano Prodi, come ogni domenica sul Messaggero: dai consumi ai cantieri, semplificare la ripartenza. Sapete che ieri il Premier Conte ha detto, archiviato questo decreto e tutte le ulteriori messe a punto con i governatori, lavoreremo subito sul tema delle semplificazioni. Avvenire, mettiamoci alla prova, vi cito Avvenire anche perché poi all'interno trovate le regole, perché possono ripartire anche i riti religiosi, quindi le messe, ma anche quelli di altre confessioni. E qui la foto è di volti sconosciuti, ma perché sono 24 racconti personali di cosa ci ha insegnato il lockdown, voci e volti d'Italia, quel che resta della quarantena. Il Giorno, gol alla paura, quindi anche in questo caso la foto è stata scattata ai giocatori del Dortmund ieri, finisce l'astinenza da calcio, la Serie A tedesca in campo, lo abbiamo ricordato, giocatori sì in campo con molte raccomandazioni, quindi di non abbracciarsi, di non esultare e senza spettatori, e chi era in panchina indossava la mascherina. Il titolo principale del Giorno però è "Conte riapre tutto, rischio calcolato", e noi ci fermiamo un attimo, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie agli ascoltatori, tanto naturalmente per l'ascolto, e poi a quelli attentissimi che mandano anche messaggi a quest'ora, e per esempio l'ascoltatore che dopo che ho letto il Padiglione Italia di Aldo Grasso, che citava Isaiah Berlin, dice quella citazione però in realtà sono parole di Immanuel Kant. Ci mancavano ancora alcune prime pagine. Il Fatto Quotidiano ha in prima pagina un fotomontaggio, in primo piano c'è Orlando, vicepresidente del PD, che non è una vera e propria intervista, però evidentemente un colloquio con Carlo Tecce, e il virgolettato scelto per questo colloquio, che poi trovate a pagina 6, "Grandi gruppi e media contro il governo per prendersi soldi. Chi e perché vuole abbattere Conte?". Vi segnalo anche, qui c'è uno speciale di 4 pagine oggi all'interno del Fatto Quotidiano, sulla Race for the Cure, ma a distanza, perché ogni anno c'è questa maratona per raccogliere fondi per la ricerca sul tumore al seno. Ovviamente le maratone in questo momento non si possono fare, quindi si trasferisce online. Uno dei personaggi famosi che promuove questa iniziativa è Carlo Verdone. E il cancro non va in lockdown, sapete che questa è una delle tante conseguenze della pandemia, cioè che molte patologie, molte persone che avevano bisogno di controlli o di visite. Naturalmente tutti i pazienti oncologici, ma non solo, hanno preferito o sono stati sconsigliati, hanno preferito non andare a fare queste visite o sono stati sconsigliati dal farlo o anche solo dall'andare in pronto soccorso, e quindi appunto l'emergenza magari si è aggravata per alcune patologie, o comunque i malati come quelli oncologici o di altre patologie croniche hanno dovuto rinunciare a un controllo. Libero, ripartenza al buio, poteva essere una festa, torniamo a circolare senza autocertificazioni, però Conte non è stato capace di aiutare negozi e aziende a mettersi in sicurezza, ognuno si arrangerà come sempre. E vi cito subito, perché è strano, no, vedere titoli molto simili di Libero e Manifesto, perché Libero titola ripartenza al buio, il Manifesto titola apertura al buio. E poi in prima pagina la questione FCA, solo ora tutti la rivolgono in Italia, richiesto di prestito da 6,3 miliardi allo Stato, azienda e governo in silenzio. Però l'articolo poi all'interno è interessante, perché con un'intervista a Michele De Palma della FIOM, che ci dice serve una cogestione alla tedesca, cioè questo prestito garantito da SACE potrebbe essere l'occasione appunto per introdurre la cosiddetta cogestione, cioè che prevede che all'interno del consiglio di amministrazione di un'azienda sieda anche un membro, o magari anche più di uno, dei sindacati. La verità, il decreto non c'è ancora, ma è ripieno di marchette. E poi in prima pagina richiamato anche un articolo che poi trovate a pagina 15 della Verità, di Francesco Borgonovo, che ha fatto un'inchiesta sulla ONG alla quale apparteneva o forse appartiene ancora Silvia Romano, ombre e sospetti sulla ONG che ha spedito Silvia in Africa. Il giornale, le tasse restano, il governo ha condonato solo l'IRAP, che sapete è una tassa da molti anni considerata ingiusta, di cui da molti anni si chiede se non altro una riforma da parte delle imprese, in particolare da parte di Confindustria. Il governo ha condonato solo l'IRAP, ma da giugno ripartono tutte le scadenze fiscali, dall'IRPEF all'IMU. Il premier libera tutti, ma gela la Lombardia, perché sapete che la Lombardia insieme a Umbria e Molise saranno un po' insieme a Umbria e Molise sono tre le regioni osservate speciali, perché i dati sul contagio, sul numero di decessi e sul numero di persone in terapia intensiva sono ancora preoccupanti. Anche in questo caso in prima pagina c'è il tema Silvia Romano, l'intervento è di Vittorio Sgarbi, che sapete ne aveva invocato anche l'arresto per complicità con il terrorismo, e ora le scrive una sorta di lettera aperta: cara Silvia, ecco cosa perdi a convertirti all'Islam. Vi segnalo dalle pagine interne del Sole 24 Ore, come potete immaginare tutti i giornali si sforzano, anche se lo ricordiamo nella notte in realtà ci dovrebbero essere state la messa a punto definitiva, ogni giornale dà comunque delle indicazioni. Il Sole 24 Ore, pagina 3, in particolare si concentra sul turismo. Al via il DCPM delle riaperture, dal 3 giugno i voli con l'Europa, che vista la stagione naturalmente sono anche legati molto ai flussi turistici. E c'è un'intervista a Cristian Solinas, presidente della Sardegna, che dice: la Sardegna è una destinazione Covid free, ai turisti chiederemo un passaporto sanitario. E poi il tema molto, molto discusso e controverso della responsabilità dei datori di lavoro se qualcuno si ammalasse di Covid. La pagina 7, ci sono 4 articoli del Sole 24 Ore: Covid, infortuni in Parlamento, la norma a difesa delle imprese, con un'intervista di Emilia Patta a Tommaso Nannicini, che è senatore del PD e capogruppo in Commissione Lavoro, che dice: pronti a intervenire, le aziende hanno ragione su questo tema naturalmente della responsabilità. Come sapete, probabilmente anche l'INAIL ha detto ci sarà questa responsabilità solo se verranno accertate delle violazioni sui protocolli di sicurezza da parte dei datori di lavoro. E poi c'è anche un altro tema, sempre a proposito di rischi, ed è quello sul versante sanitario. Alessandro Galimberti, sempre a pagina 7 del Sole 24 Ore: scudo penale ai medici, 3 ipotesi sul tavolo. La questione di FCA la trovate naturalmente anche su Sole 24 Ore, pagina 9, il prestito da 6,3 miliardi per la filiera in Italia. E invece la pagina di Sport e Business, come ogni domenica sul Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo ci racconta gli aiuti allo sport, CIG in deroga e rinvii di canoni e imposte. Nell'ultimo provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri per gli aiuti e la ripresa dell'economia, gli interventi a sostegno del settore sono diversi. Prevale però una logica di breve periodo e non strutturale. La sezione Lifestyle, come ogni domenica sul Sole 24 Ore, è la copertina di Federico De Cesare Viola, Non solo Moca, prende un po' spunto da questo libro Mondo Caffè e ci racconta appunto, e lo sappiamo insomma in Italia, lo adoriamo anche a casa, dove stiamo imparando ad apprezzare specialità e metodi alternativi di estrazione con ritmi lenti e miscele dal mondo. La seconda pagina di Lifestyle, a cura di Sara De Ganello, ecco la casa ibrida pronta a tutti gli usi. Sappiamo che uno dei grandi cambiamenti sotto gli occhi di tutti di questo periodo di lockdown è stato nelle abitudini di lavoro. Moltissime persone hanno lavorato da casa, chi poteva farlo naturalmente, e questo probabilmente porterà a dei cambiamenti appunto non di breve periodo ma anche strutturali, e quindi anche le case si adattano se in casa bisogna sia vivere che lavorare. Dal Corriere della Sera un colloquio di Paola Pollo con le autrici di questo libro La rivoluzione comincia dal tuo armadio, pubblicato da Solferino. Sono Luisa Ciuni e Marina Spadafora, ed è sulla moda sostenibile, un libro che cerca un po' di fare chiarezza su che cosa davvero significhi essere sostenibili per l'industria del tessile moda. Basta moda, usa e getta, lo shopping sarà il nuovo atto politico. Vi segnalo sempre dal Corriere della Sera, visto che abbiamo parlato di sport e business, un articolo di Daniele Sparisci a pagina 43. Il calcio litiga molto ma paga le tasse. I 31 miliardi di Cristiano Ronaldo diventano 54 lordi, sempre per l'erario. Sulla questione della scuola, sapete che ieri c'è stata anche una conferenza, questa appunto in remoto, della ministra Azzolina. E con le novità che avete sentito anche nel GR, la ministra insiste: maturità dal vivo, a settembre lezioni anche all'aperto. E ci sono appunto questa pagina a cura di Ilaria Venturi con quello che si sa fino adesso, ma purtroppo sappiamo anche che le regole sono cambiate più volte, magari cambieranno ancora in vista dell'inizio degli esami di maturità e soprattutto della vera e propria ripresa dell'anno scolastico in settembre. Ecco, vi dicevo, i cambiamenti sul lavoro. Ettore Livini, pagina 25 di Repubblica. Caro vecchio ufficio, non mi servi più. L'emergenza Covid e lo smart working hanno rivoluzionato il modo di lavorare degli italiani, ma anche le aziende all'avanguardia dicono che è necessario mantenere uno spazio comune. E qui c'è una intervista di Antonello Guerrera, un ex manager di Twitter, Bruce Daisley, perché sapete che il fondatore di Twitter invece, Jack Dorsey, si è addirittura spinto a dire che per quanto riguarda i dipendenti di Twitter, se lo vorranno potranno essere in smart working, in telelavoro, che non necessariamente è smart, cioè intelligente, per sempre. Ma questo ex manager dice: mancherà il romanticismo ma non si torna indietro. E però appunto il tema, quello di mantenere un senso di comunità, tutti abbiamo sperimentato come sia difficile tra collegamenti incerti, voci che si sovrappongono, mantenere appunto, fare una riunione usando questi programmi tipo Zoom o Teams o tanti altri ancora. In futuro niente scrivanie fisse e pause caffè, questa per esempio è una realtà già in molti uffici. Gli ambienti saranno organizzati in base alle funzioni e facendo attenzione alla sicurezza. Questa è una notizia che trovate solo sulla Stampa, la racconta Leonardo Martinelli, che sicuramente molti ascoltatori di Radio 24 ricordano, perché ha lavorato al Sole 24 Ore e anche per Radio 24 per tanti anni. Ce la racconta lui, perché il fatto è avvenuto a Parigi e Leonardo vive a Parigi, ed è la storia di Félicien Kabuga, che era uno degli uomini più ricercati al mondo. È stato preso a Parigi dopo 23 anni di fuga, è un banchiere ed è accusato di aver finanziato il genocidio in Ruanda, che è una delle pagine più terribili della storia recente del mondo. Ricorderete nel 1994 uno sterminio compiuto in soli 100 giorni, circa 900.000 persone morte in 100 giorni a colpi di macete. Dal 6 aprile al 16 luglio del 1994. Era un odio razziale, soprattutto verso la minoranza Tutsi. Felicien Kabuga appartiene invece alla maggioranza Hutu. E quindi Leonardo ci racconta: Felicien Kabuga è accusato di aver finanziato e organizzato la strage dei Tutsi nel 1994. Non dimentichiamolo mai, veramente. 1994, sono passati 26 anni da questo genocidio. Ve lo ricordo ancora una volta, è una pagina appunto della storia che deve farci riflettere sulla malvagità, se vogliamo, dell'uomo. 900.000 persone uccise a colpi di macete in poco più di 3 mesi. Per compensare questa tristezza che mi viene da raccontare l'episodio del Ruanda, un'intervista sul Messaggero a Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che dice: un patto mondiale per il vaccino. E c'è questo tema, non l'abbiamo ricordato più volte, che in questa pandemia una delle buone notizie, non è l'unica, è che c'è veramente, sembra esserci una condivisione di informazioni a livello mondiale per cercare appunto di arrivare a un vaccino il più presto possibile. Ora noi invece ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e siccome c'è un ascoltatore che dice: vi definite professionisti dell'informazione, ma se dopo 3 giorni non avete ancora capito che l'onorevole Cunial definisce epidemia culturale lo scientismo dogmatico e non il pluripresidente. Ma nessuno ha definito il pluripresidente una epidemia culturale. Ho citato il virgolettato dell'onorevole Cunial: lo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente. Questo ha detto, c'è una piccola differenza rispetto a quello che l'ascoltatore sostiene che io abbia detto e che non ho detto, ma l'accusa è naturalmente ugualmente grave, cioè ha accusato Sara Cunial, il pluripresidente, e ne abbiamo uno solo di Presidente della Repubblica, quindi il riferimento era a Sergio Mattarella, di proteggere questo scientismo dogmatico. A proposito di Movimento 5 Stelle, visto che l'onorevole Sara Cunial con il Movimento 5 Stelle era stata eletta e poi espulsa, vi segnalo dal Messaggero un articolo sul futuro di Roma, perché il sindaco Virginia Raggi, sapete, lei ha sempre un po' negato, ma le opinioni cambiano, specie in politica, di volersi candidare a un secondo mandato, e Mario Aiello, a pagina 16 del Messaggero, si apre la battaglia per Roma: il bis di Raggi spacca il Movimento 5 Stelle. Il capo politico Vito Crimi, che ha sostituito Luigi Di Maio, doveva essere a termine a quanto avevamo capito, ma in realtà sembra mantenere questo incarico, e dice abbia dato il suo ok alla ricandidatura, ma autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi, invece basta deroghe e poi divieto al terzo addirittura mandato. E dicevo, dall'Avvenire tutte le istruzioni per la messa, pagina 7, dai guanti per l'ostia agli adesivi sulle panche, che un po' come sui mezzi pubblici indicano dove ci si può sedere e dove no, ecco che cosa accadrà nelle nostre parrocchie. Vi dicevo, leggendo parte dell'editoriale di Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, questo tema dell'indebitamento. E c'è una bellissima pagina di approfondimento a pagina 15 dell'Avvenire: il debito globale sta esplodendo. Il passivo di governi, imprese e famiglie viaggia verso il massimo storico del 340% del PIL del mondo. Grazie a Fed e BCE i rimborsi non sono costosi. Per i paesi più poveri però occorre un taglio drastico. Questo tema del taglio del debito ai paesi più poveri torna ciclicamente, vediamo se verrà affrontato quando saremo usciti dalla pandemia. Antonio Socci sul Libero, sapete che Antonio Socci 10 giorni fa ha fatto un tweet insultante verso Papa Francesco e per una volta c'è stata una conseguenza, cioè ha dato le dimissioni da presidente della scuola di giornalismo di Perugia e quindi questa settimana, vediamo quanto durerà, non si esercita contro Papa Francesco, che è il suo esercizio preferito, e su Libero invece racconta la profezia sulla Cina che conquista il mondo. Nel 1996 Vittorio Feltri aveva, che guarda caso è anche il direttore del giornale su cui appare questo articolo, aveva previsto il cedimento dell'Occidente. Solo Trump impedisce il successo della lunga marcia di Pechino. Sempre su Libero un'intervista al professor Remuzzi, che forse avrete sentito anche qui ospite di Uno Nessuno e 100 Milan giovedì mattina, mi sembra, qui su Radio 24. Giuseppe Remuzzi è un medico ed è anche presidente, aspettate che lo trovo perché non voglio fare, eccolo qua, è il capo dell'Istituto Farmacologico Mario Negri, quindi di cui abbiamo citato prima anche il presidente Silvio Garattini. L'intervista di Tobia De Stefano a questo virgolettato, che poi in realtà nell'intervista non c'è, però è comunque molto interessante questa intervista. Il virgolettato è: Covid è sempre più debole e diventerà un raffreddore. In realtà Remuzzi dice che questo potrà succedere tra un anno e mezzo, però intanto dice che per esempio considererebbe giusto riaprire le scuole. Sulla mascherina dice: la chirurgica va benissimo, le altre sono troppo impegnative. Sul calcio, per esempio, farebbe ripartire anche il campionato di calcio, e Remuzzi risponde: la mia fede calcistica, tifo Atalanta, mi farebbe propendere per il sì, ma se ne può discutere solo se si gioca a porte chiuse, quindi come in Germania, e comunque la priorità va data a cultura e istruzione. E a proposito di cultura, passiamo quindi ai supplementi della domenica e cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Attenzione, e la citazione è questa: coloro che si sentono infelici di null'altro al mondo hanno bisogno se non di qualcuno che presti loro attenzione. Yona Potapov era un vetturino malandato che sopravviveva guadagnando ogni giorno qualche copeco. La vera ricompensa a cui aspirava era però quella di essere ascoltato quando tentava di descrivere a un cliente la sua solitudine, la sua sofferenza. Nessuno però aveva tempo da perdere nel sentire quella che considerava una lagna altrui, e così egli deperiva, travolto da quella sindrome che il grande Anton Chekhov aveva dato come titolo al suo racconto, cioè malinconia. Siamo ricorsi a questa parabola per commentare la frase forte e vera che abbiamo sopra raccolto dagli scritti di quella donna straordinaria che è stata l'ebrea Simone Weil, vissuta tra il 1909 e il 1943, le cui riflessioni sono sempre preziose. L'attenzione, come dice la parola, è un tendere verso l'altro, dedicandogli qualche parola e forse un gesto, ma soprattutto riservandogli quel dono raro che è l'ascolto partecipe, l'essere accanto a lui in silenzio, condividendo la sua pena e soddisfacendo, appunto, con la nostra attenzione la sua attesa. La copertina vera e propria, però, è un articolo di Salvatore Accardo dedicato a Niccolò Paganini. Salvatore Accardo rievoca il violinista genovese che ha scandito tutta la sua carriera e ne descrive il celebre violino. Poi vi segnalo un estratto della prefazione di una nota critica di Mario Andreose a una nuova edizione del Nome della Rosa, il bestseller mondiale di Umberto Eco, che appunto esce il 21 maggio in una nuova traduzione per La Nave di Teseo, e questa è un'edizione annotata, e Mario Andreose racconta il nome disegnato della rosa annotata. 40 anni di distanza dalla prima edizione esce una nuova edizione del testo che ha reso Umberto Eco famoso nel mondo. È arricchita da disegni e annotazioni manoscritte, testimonianze della genesi dell'opera. E sicuramente chi ha amato questo libro può godersi queste nuove finestre su come è nato, grazie appunto alle note dell'autore. E poi vi segnalo di Gilberto Corbellini il racconto di un anniversario. C'era una volta la malaria, 50 anni fa l'eradicazione dell'epidemia in Italia, grazie a un eccezionale piano di bonifiche delle paludi della zanzara anofele e di miglioramenti agricoli e abitativi. La lettura, il supplemento del Corriere della Sera che sapete esce la domenica e poi resta in edicola tutta la settimana, copertina affidata come sempre a un artista, questa settimana Mirko Baricchi. E poi vi segnalo, sapete che le prime pagine sono sempre, hanno un approfondimento, qui ci sono 5 pagine, è un dialogo, se volete, immaginario raccolto da Anna Chiara Sacchi, e sono 5 pagine. Veramente lode a Anna Chiara, perché deve essere stato un lavoro insomma faticoso, ma probabilmente anche divertente. Dialogo sui destini dell'uomo tra Aristotele e Nietzsche, quindi conversazione immaginaria appunto tra Aristotele, interpretato da Giuseppe Cambiano, e Friedrich Nietzsche, interpretato da Silvano Petrosino. La drammatica stagione del coronavirus ha costretto a una nuova riflessione su alcune questioni che hanno a che fare con la natura dell'uomo: il senso del dolore, il rapporto con Dio, il ruolo della scienza, il significato dell'etica. Sono temi sui quali si sono confrontati due giganti del pensiero: il greco Aristotele, allievo di Platone, precettore di Alessandro Magno, e il tedesco Friedrich Nietzsche, ucciso nel 1900 da una polmonite. La lettura ha provato a farli dialogare, perché i due interpreti, cioè Giuseppe Cambiano e Silvano Petrosino, il primo è professore di storia della filosofia alla Normale di Pisa e il secondo è professore di teoria della comunicazione e antropologia religiosa alla Cattolica. Un altro interessante spunto, sempre raccogliendo le voci e quindi i relativi punti di vista su questa pandemia, quindi sul lockdown e ora sulla fine del lockdown, a partire da pagina 10, sempre della lettura, Marco Ventura in questo caso è andato a trovare alcune suore di clausura, alcune clarisse, che raccontano: la nostra clausura si rinnova ogni giorno. Mentre si allentano le regole del confinamento, la lettura è andata in un luogo in cui quelle regole durano da sempre e dureranno per sempre, perché sono un atto di fede, un monastero di clarisse. Qui si riflette sul ritmo, la distrazione, il flagello del virus. Molto interessante. E poi, altrettanto interessante, invece un estratto di un libro di Alan Parks che ha esordito nella narrativa con Gennaio di Sangue, e questo è un libro sui testi degli U2, le mille luci degli U2. Alla lettura propone una lista di brani, scusate, non è un libro ma è proprio uno scritto apposta per la lettura, della produzione più recente di una rock band non proprio qualunque. Sulla copertina di Robinson, il supplemento culturale settimanale della Repubblica che esce il sabato ma poi resta in edicola tutta la settimana, la copertina è dedicata a Italo Calvino, che è morto nel 1985, qui è ritratto in una foto del 1974, e in questo caso lo spunto è che c'è un inedito di Italo Calvino, Storia d'amore e di guerra, la resistenza o i sentimenti, la montagna o la famiglia, quando il giovane scrittore disse bella ciao. E ci sono anche tanti interventi che ricordano questo straordinario scrittore. Era l'ultima segnalazione per oggi, grazie a tutti gli ascoltatori, non sono riuscita a leggere tutti i messaggi, ma comunque leggo quest'ultimo. Buongiorno signora Crivelli, la Cugnal è la vera voce dell'Italia. Non lo so, queste generalizzazioni sono pericolosissime, posso dire nel mio piccolo che non è sicuramente la mia voce, ripeto, non so neanche cosa intenda per scientismo dogmatico. Ma detto questo, grazie comunque a tutti gli ascoltatori, grazie a Carmelo Lauricella in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.